si contraddistingue per l'imposizione. Si serve del creato per creare questa evoluzione. Dall'alto Dio mi chiama CFB, pronto alla battaglia. Underground solution, bombe rima, scaglia l'onda d'urto che va oltre mille miglia. L'energia che sveglia, siccità di terra troppo libera, alla ricerca dell'energia più vivida. Mi servo della mimica per creare situazioni favorevoli. L'armata si prepara per l'attacco, prende il distacco da ogni singolo vigliacco. L'energia da sotto prende forma come fuoco. L'eco delle mie grida aiuta chi di sofferenza grida. L'anima assopito prende vita, seguo la mia guida che è l'istinto. Vinto dal pensiero che se provo a combattere ho già vinto. Spingo come stendal questa merda fuori dal dipinto. Immagini reali che ho già visto, codici numerici che non percepisco. Cerco la mia conoscenza dal più inutile al più casto. Mi smaterializzo tra la polvere e freddo come il ghiaccio. Intrappolato a vita in questo viaggio, in questo viaggio. Intrappolato a vita in questo viaggio, in questo viaggio. Cenere alla cenere, veniamo dalla polvere. Chiusi in questo viaggio e non mi posso muovere. Venuti dall'inferno per poter riscuotere. Venuti al mondo solo per insorgere. Insorgere. Cenere alla cenere, veniamo dalla polvere. Chiusi in questo viaggio e non mi posso muovere. Venuti dall'inferno per poter riscuotere. Venuti al mondo solo per insorgere. Insorgere.